Respiro. Buongiorno a tutti, carissimi ascoltatrici e ascoltatori, benvenuti a Respiro, io sono Cristina Carpinelli. Prima di affrontare il tema di oggi volevo ringraziare gli ascoltatori che si sono messi in contatto con noi, che hanno chiesto informazioni, avanzato critiche, proposto idee. Respiro nel suo piccolo si sta trasformando in una piazza dove cominciano ad incontrarsi persone che amano l'ambiente con persone che con l'ambiente lavorano. L'indirizzo è sempre respiro@radio24.it e in qualche modo la trasmissione sta diventando un punto di incontro, di ascolto, di dibattito e risponde alla tesi avanzata da Paul Hawken, che nel libro Moltitudine inarrestabile ci racconta di come è nato il più grande movimento al mondo e perché nessuno se n'è accorto. Ovviamente stiamo parlando del movimento ambientalista e questo che vado a leggervi è un estratto dal libro che vorrei proprio dedicare a voi ascoltatori di Respiro, che ogni giorno con le vostre piccole e sane abitudini contribuite a far crescere appunto un movimento che sta crescendo grazie anche al vostro contributo. Allora, leggiamo la prefazione a questo libro dal titolo Moltitudine inarrestabile. A qualunque livello, dall'individuo ai piccoli gruppi e comunità, dalle città alle arene nazionali e internazionali, vi sono migliaia di decisioni e di azioni che ciascuno di noi può avviare o influenzare quotidianamente. Sono lieto di vedere un numero sempre crescente di uomini progressisti e coraggiosi negli organi delle comunicazioni di massa, negli organismi internazionali, nelle chiese, nelle accademie, nelle università, nell'industria, in molti centri nevralgici della società. Uomini che desiderano e intendono preparare il terreno all'azione capillare del cittadino medio che a sua volta li può stimolare a fare di più. Vedo anche un immenso esercito popolare che lentamente sorge e si muove su fronti sparsi e frammentati in tutto il mondo. È un esercito di cittadini qualunque che ritengono che sia giunto il momento di cambiare le cose. Sono tanti e tanti sono i loro obiettivi, disparati e in apparenza senza alcuna reciproca connessione. Sono e costituiscono i movimenti per la pace, i movimenti di liberazione, i gruppi spontanei di conservazione e di difesa ecologica, il movimento di liberazione femminile e le associazioni per il controllo della popolazione, i difensori delle minoranze, dei diritti umani, delle libertà civili, gli apostoli della tecnologia dal volto umano, dell'umanizzazione del lavoro stesso nella fabbrica o dovunque si svolga, i difensori del consumatore, contestatori non violenti, gli obiettori di coscienza e una moltitudine di uomini e donne, vecchi e giovani, ispirati da quelli che essi ritengono essere un nuovo bene comune, da obblighi morali più forti di qualsiasi altro dovere. Come è nella tradizione, questo esercito del popolo ha alte motivazioni e un pessimo equipaggiamento, vince le scaramucce e perde le battaglie ed è destinato a essere spietatamente sopraffatto a livello strategico e schiacciato dal tallone dei conservatori. Ma ciò nonostante, poiché la storia marcia con esso, prima o poi prevarrà. E questo era un estratto da Paul Hawken, Moltitudine inarrestabile. E dunque Hawken ci introduce con il suo testo a quest'ultima puntata di Respiro, una puntata in attesa dell'autunno. E allora cerchiamo di mettere qualche punto prima di andare tutti in vacanza. E lo facciamo con Francesco Bertolini, docente all'Università Bocconi di Milano, manager Green Management Institute. E partiamo dal tema delle impronte ecologiche e cerchiamo di capire assieme a lei, professor Bertolini, se ha ancora senso parlarne e se ha ancora senso combattere. L'impronta ecologica è il parametro fondamentale, o perlomeno dovrebbe essere il parametro fondamentale quando si parla di politiche ambientali. Noi oggi sappiamo che utilizziamo un pianeta, 3 per soddisfare i nostri bisogni, e cioè le risorse che utilizziamo e i rifiuti che produciamo hanno, per essere in equilibrio, bisogno di 1,3 pianeti. Questo significa che la Terra avrebbe bisogno di un anno e 4 mesi per rigenerare quanto consuma in un anno. Questi due dati ci danno l'idea, se era ancora necessario confermarlo, che noi viviamo al di sopra delle nostre possibilità. Noi abbiamo assistito in questi ultimi mesi alla crisi finanziaria. La crisi finanziaria era sostanzialmente dovuta al fatto che si viveva sopra le proprie possibilità finanziarie. È come se noi vivessimo è come se noi guadagnassimo 1000 e spendessimo 1400. Ci rendiamo conto che questo modo di vita può procedere per un certo periodo cercando di posticipare i nostri debiti, ma alla fine qualcuno dovrà pagare e rischiamo di dover pagare tutti. Fatta questa premessa non molto tranquillizzante, ma che si racconta ormai da 20-30 anni e che nessuno vuole ascoltare, lei mi chiede se sia ancora sensato parlare di impronta ecologica oppure se sia una battaglia completamente persa. Io ho sempre uno slogan per affrontare questo tema e dico che innanzitutto noi non possiamo essere complici, no? Per cui di questo percorso verso la catastrofe senza ribellarci, per cui è assolutamente necessario non solo mantenere il focus sull'impronta ecologica, ma è necessario promuoverne il concetto, promuoverne il significato, inserirla in tutte le politiche ambientali, siano esse globali, siano esse nazionali, siano esse regionali, siano esse locali, perché molto spesso quando si parla di insediamenti industriali, insediamenti commerciali, infrastrutture, si parla di politiche ambientali solamente in chiave di minimizzazione dell'impatto ambientale piuttosto che compensazione. Cosa significa? Significa che comunque tutto è centrato sull'aspetto economico e fino a quando tutto sarà fatto girare intorno all'economia, l'aspetto ambientale sarà sempre un allegato che non modificherà sostanzialmente l'elemento centrale, cioè l'impronta ecologica, ma sarà solamente qualcosa che addolcirà una torta che spesso è avvelenata. E quindi noi pensiamo sempre che accrescere la ricchezza, che accrescere i consumi, aumentare il PIL coincida con l'aumento del benessere dei cittadini, ma ci rendiamo benissimo conto, perché ormai le evidenze empiriche sono numerosissime, che stiamo continuando ad aumentare una torta e distribuendo agli abitanti di questo pianeta delle fette sempre più grosse ma sempre più avvelenate, e mangiare fette più grosse di un cibo avvelenato non può che peggiorare la qualità della nostra vita. Detto questo, però, se vogliamo anche dare una chiave di lettura appunto ottimistica o comunque non complice, come diceva lei, possiamo anche segnalare il fatto che noi di Respiro l'abbiamo fatto nel corso di questo anno. Esistono, e forse mi sembra di credere di poter dire che sono sempre più in crescita, persone, come diceva Hawken, in moltitudine inarrestabile, sempre più persone che nel loro singolo, con le loro piccole scelte di vita quotidiana, indirizzano altre persone verso, come dire, una scelte virtuose rispetto all'ambiente, e in qualche modo danno forma, vita a questo movimento ambientalista che ormai è presente, è forte, è vivo, cioè comincia a dare anche dei segnali forti, non so, ad esempio nelle ultime europee, ma comunque segnali forti anche proprio nella scelta, negli acquisti, in tutto quello che è la vita, appunto. C'è una grandissima sensibilità ecologica e c'è un grandissimo bisogno di ambiente. Questo viene testimoniato non solo dalle ultime elezioni europee, dove in molti paesi il movimento ambientalista ha avuto risultati clamorosi, basti pensare al 16% in Francia, al 12,5% in Germania e complessivamente all'aumento importante in termini di seggi al Parlamento europeo. Solo l'Italia ha stonato in questa rappresentazione politica del sentimento ecologista. Ma questo secondo lei perché? Ma questo non significa che non ci sia una sensibilità ambientale nel nostro paese. Nel nostro paese c'è una fortissima sensibilità ambientale e le faccio alcuni esempi molto banali. Io vivo a Milano il progetto bike sharing è un progetto che sta avendo un successo spaventoso. Sto seguendo un progetto con la grande distribuzione organizzata in cui emerge come non sia vero che i consumatori vogliano il packaging. I consumatori oggi non vogliono avere tre confezioni, tre strati di packaging per doverlo poi smaltire, ma vogliono e sono sensibili a prodotti con una minore quantità di imballaggio. Se noi chiediamo a 100 persone quali sono le problematiche più critiche in termini di prospettici, sicuramente l'ambiente viene indicato da una percentuale fortissima. La sfida è trasformare questa sensibilità di fondo non solo in movimenti in grado di incidere sulle scelte politiche, e qui il grosso limite è rappresentato dal movimento Verde Italiano, con tutti i suoi difetti e le sue debolezze che l'hanno portato poi a una sostanziale scomparsa dal movimento, dal quadro politico, ma essere scomparsi dal quadro politico non significa che sia scomparsa la voglia di ambiente dei cittadini. La voglia di ambiente dei cittadini deve essere intercettata dalle forze politiche e soprattutto dal sistema economico. Noi oggi assistiamo ancora a un mercato di prodotti ecologici in crescita ormai da tanti anni, ma ancora poco significativo. Assistiamo e vediamo abbiamo visto una forte crescita del mercato dei prodotti biologici, ma ancora assistiamo a un mercato di prodotti ecologici, cioè non legati all'alimentare, ancora molto debole. Ma se noi guardiamo quello che sta avvenendo negli ultimi, direi addirittura mesi, un po' dovuto alle normative sempre più stringenti, basti pensare alle normative sulle emissioni di CO2 da parte dei veicoli, e quindi assistiamo al mercato della pubblicità e vediamo come il sistema delle imprese utilizzi la leva ambientale in modo sempre più frequente per intercettare questa sensibilità. E quindi il sistema delle imprese, che come sempre è più avanti rispetto al sistema politico, ha ormai deciso che l'ambiente sarà una leva competitiva e quindi una leva per distinguersi all'interno dei propri settori di riferimento, e quindi ha ormai identificato questo come un elemento a cui i consumatori sono molto sensibili. Negli ultimi 10 anni il PIL italiano è cresciuto più o meno del 10%, la produzione dei rifiuti è cresciuta del 20%. Questo significa che i rifiuti, uno dei fattori più critici per quanto riguarda le problematiche ambientali, crescono in misura più che proporzionale rispetto al PIL. E nonostante tantissime iniziative di raccolta differenziata, di Agenda 21, di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini, l'unico anno in cui noi abbiamo assistito a una diminuzione nella produzione dei rifiuti è stato quest'anno, è stato cioè il 2009, l'anno della crisi. Cosa vuol dire? Vuol dire che la crisi economica ha inciso e incide in misura molto più significativa rispetto a tutte le politiche ambientali che abbiamo messo in atto, che è necessario dividere i rifiuti, ma è necessario, e ancora più necessario, è fondamentale diminuire la produzione dei rifiuti alla fonte, altrimenti noi possiamo dividere finché vogliamo, ma se i rifiuti che dividiamo aumentano ci troveremo sempre di fronte a un volume complessivo di rifiuti maggiore rispetto all'anno precedente. E allora da questa visione è vero che nascono opportunità e nascono nuove nicchie di mercato, nuovi materiali, negli ultimi anni sono nati alcuni nuovi materiali che poi in realtà non sono altro che aggregazioni di materiali ottenuti dalla raccolta differenziata, cioè usando parole semplici si mischiano dei rifiuti e si costituiscono questi nuovi agglomerati che uniscono l'alluminio, il polietilene, gli inerti e vengono presentati come prodotti ecologici, che da un certo punto di vista è sensato e interessante, dall'altro punto di vista non incidono sull'aspetto ambientale di fondo. Non voglio in questo senso essere completamente distruttivo e non segnalare come la nuova sensibilità dei cittadini, dei consumatori e aggiungerei dei risparmiatori. Noi abbiamo assistito in questi ultimi anni a una crescita esponenziale dei fondi di investimento in cui l'aspetto etico ed ambientale era un elemento premiante e un elemento distintivo, perché il cittadino sensibile quando va a votare l'ambiente, che diventa poi consumatore quando va ad acquistare dei prodotti, è lo stesso cittadino che diventa risparmiatore quando va in banca e quindi non vuole che i propri risparmi vengano usati per finanziare aziende che inquinano il territorio in cui vive o che incidono in maniera così negativa sul cambiamento climatico, o perlomeno questa è la speranza e l'orientamento di questi, che questi fondi di investimento ipotizzano e in cui credono di aver visto, giustamente secondo me, un elemento di marketing significativo. Respiro. Bentornati a Respiro, e dunque puntata conclusiva, e come ogni trasmissione che si rispetti, anche noi nel nostro piccolo abbiamo deciso di darvi delle indicazioni, dei consigli di lettura per l'estate. Allora abbiamo scelto ovviamente il libro di Paul Hawken che abbiamo già menzionato nella prima parte, che si intitola Moltitudine inarrestabile. Poi vi consigliamo La città delle nuvole, un libro di Carlo Vulpio che parla di Taranto e il sottotitolo purtroppo la dice lunga, cioè Viaggio nel territorio più inquinato d'Europa. E infine Nuvole e sciacquoni, un libro di Giulio Conte che abbiamo chiamato e intervistato. Prima però, prima di sentire appunto l'intervista a Giulio Conte, volevo leggervi un brevissimo estratto dal libro La città delle nuvole. Bisognerebbe andarci in gita scolastica, ma è pericoloso, perché dopo qualche minuto il bruciore agli occhi e alla gola è insopportabile e gli odori sono troppo forti per le narici. Gli scarichi a mare della raffineria Eni sono un fiume impetuoso che alla fine del percorso solleva una nube di infinite goccioline, una nebbia che fa da velo all'orizzonte anche quando il cielo è terso. Cosa c'è in quell'acqua scaricata in mare? Chi controlla che cosa finisce nello Ionio da quella postazione industriale? Nessuno. Sulla spiaggia, proprio accanto al canale di acque che si riversa in mare, c'è un rottame, una specie di roulotte senza ruote, fissata al terreno da quattro piedi di ferro. È stata completamente bruciata, ne è rimasto soltanto lo scheletro, ma è lì da anni e nessuno se ne occupa. E, o meglio era, o ancor meglio avrebbe dovuto essere, una stazione di rilevamento e analisi delle acque scaricate in mare. Giulio Conte, lei ha scritto Nuvole e sciacquoni. Intanto il titolo, oltre ad essere molto divertente, già ci fa capire di cosa si parlerà. Il sottotitolo è Come usare meglio l'acqua in casa e in città. È un libro, devo dire, ben informato, che ha una sorta di, come dire, excursus interessante, per cui si parte da un'introduzione che dà un po' il senso generale del libro, poi si fa una storia in qualche modo dell'utilizzo dell'acqua, di come è entrata nelle nostre case, e poi si entra nel vivo dell'argomento. Il vivo dell'argomento, per gli ascoltatori che in vacanza si vorranno leggere appunto questo libro Nuvole e sciacquoni, è come si può, quali sono le strategie che si possono mettere in atto per arrivare a una riduzione dell'acqua nelle nostre case, ma non solo. Il punto centrale del libro è che tiene insieme i problemi della quantità, quindi della scarsità e a volte dell'eccesso dell'acqua, con i problemi della qualità, cioè dell'inquinamento. Quello che non tutti sanno è che ancora oggi il maggior carico inquinante che grava sulle acque in Italia e in buona parte del mondo non è il carico industriale, come si potrebbe pensare, ma il carico che ognuno di noi genera ogni volta che va in bagno. E questo è un motivo per cui è importante cercare di trovare nuove soluzioni per la gestione dell'acqua, non solo nelle zone dove l'acqua manca, e quindi nell'Italia meridionale per esempio, ma anche a Milano, dove la falda ci sta quasi entrando dentro casa. Ugualmente dobbiamo comunque gestire meglio e spesso consumare meno acqua per poterla depurare meglio. Parlando dello sciacquone, lei nel suo libro cita quanto detto da Livingston ai londinesi, quindi usate il meno possibile lo sciacquone. E posso dire una cosa, all'interno di Respiro, qualche tempo fa, ospitando Pratesi, abbiamo proprio sollevato questo argomento, cioè quanto toccando certi temi, e proprio arrivando proprio terra a terra allo sciacquone, all'utilizzo dello sciacquone, ci si accorge che è ancora un tabù il tema dell'acqua per moltissime persone che si dicono, nonostante tutto, ambientaliste, rispettose, non si riesce a consumare meno, non si riesce a lavarsi meno, a evitare un bagno al giorno, a utilizzare frequentemente lo sciacquone. È così? Il tabù esiste e ci sono motivazioni antropologiche, psicologiche per cui esiste e per cui forse deve anche esistere. Quello che è importante sapere però è che ci sono delle soluzioni anche che permettono sostanzialmente di non modificare in nessun modo i nostri comportamenti, riducendo però i consumi a meno del 50% dei consumi medi, che sono oggi di circa 200 litri ogni abitante al giorno. Noi possiamo non cambiare nulla nei nostri comportamenti, ma consumare meno di 100 litri abitante al giorno, facendo una cosa che i nostri antenati facevano abitualmente, che era quella di raccogliere l'acqua piovana, e facendo una cosa che i tedeschi hanno cominciato a fare 20 anni fa, e cioè depurare le acque grigie, cioè le acque che vengono prodotte nei lavabi, dai lavabi e dalle docce, che si depurano molto facilmente, possono essere utilizzate per scaricare il WC. Non c'è nessun motivo di usare acqua potabile. E questo devo dire che molti ascoltatori di Respiro lo stanno già facendo, ristrutturando la loro casa, quindi sta cominciando in qualche modo a entrare anche negli usi di alcuni italiani, magari sono proprio una nicchia, però come sappiamo poi dai piccoli gruppi si allargano di solito le rivoluzioni, così insomma la rivoluzione parte dai singoli. Diciamo, nel suo libro ci sono poi tutti i suggerimenti anche tecnici, ecco, questa è una cosa che va detta, perché si possono avere moltissimi consigli su come risparmiare, quali sono le cose da inserire, non so, rubinetti elettronici, rubinetti termostatici. Lei classifica poi tutti questi sistemi che si possono utilizzare per il risparmio dell'acqua, e soprattutto si mette in qualche modo in gioco in prima persona, perché racconta come negli anni 70 raccogliere ad esempio l'acqua piovana fosse, soprattutto nel sud Italia, una pratica insomma fatta da tutti. Anch'io vengo da una storia simile e lo ricordo anch'io. E oggi invece? Oggi invece, diciamo, negli anni appunto 60 e 70 le politiche idriche hanno teso alla centralizzazione, se possiamo dire così. Cioè, in passato l'accumulo dell'acqua avveniva in maniera molto decentrata, ogni casa, ogni masseria, ogni fattoria aveva il suo accumulo dell'acqua. Questo naturalmente permetteva una molto maggior flessibilità, perché ognuno poteva usarla secondo i propri bisogni. Le grandi opere che sono venute a partire dagli anni 50, 60 e 70 hanno puntato a centralizzare, per cui per esempio in Basilicata sono stati fatti grandi invasi che servono oggi tutte le utenze, sia irrigue sia domestiche, della Puglia. Allora, quello che è una grande capacità di accumulo diffusa è stata centralizzata in questi grandi invasi. Questo comporta alcuni vantaggi e una sicurezza sicuramente maggiore dal punto di vista della disponibilità idrica, ma anche molti svantaggi, perché queste opere presentano dei problemi ambientali, molto spesso hanno una durata di vita inferiore a quella che si aspettava, e poi sono un veicolo di potere e alle volte nel mezzogiorno anche di infiltrazioni mafiose. È tutto, Respiro termina qui. Io vi ricordo che potete trovarci all'indirizzo radio24.it oppure scriverci all'indirizzo respiro@radio24.it. Buona giornata a tutti da Cristina Carpinelli.